Europa 24. E prima di Carlo Genta c'è Gigi Donelli e l'Europa, l'appuntamento classico delle 14:03 che scoccano in questo istante. Europa, dunque, avete sentito poco fa negli aggiornamenti sui GR che Nigel Farage ha annunciato dunque queste dimissioni dal ruolo di vertice di UKIP. Ha anche ribadito che però rimarrà all'interno dell'Europarlamento, dove tra l'altro è presidente del gruppo, di fatto definito il gruppo euroscettico, anche se non è l'unico, all'interno del quale troviamo anche il Movimento 5 Stelle ed altri partiti. Questo dunque per il fronte delle ultime notizie dall'Europarlamento. Oggi vi facciamo sentire due servizi che ci portano attraverso quelli che sono gli eventi di queste ore, quelli che sono le prospettive pratiche per il Regno Unito, che a questo punto dovrà scegliere, e sentiamo tra un momento ci sono varie opzioni. E poi c'è un altro aspetto di questa stessa storia, che è chi potrà prendere i posti attualmente occupati dai funzionari di vario grado che appunto hanno il passaporto del Regno Unito. Lo sentiamo in questi servizi. Un divorzio per ricominciare. Ma come? Che cosa faranno gli inglesi dopo l'addio all'Unione Europea per non ritrovarsi in un totale isolamento? Per poter riallacciare i rapporti con Bruxelles, Londra potrebbe aderire allo spazio economico europeo, come Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Sarebbe questa la soluzione più rapida e permetterebbe l'accesso al mercato interno dell'Unione Europea, ma rimarrebbero escluse le altre forme di integrazione, come la politica agricola comune o quella di sicurezza. In questo caso i vincoli sono meno stretti. Londra dovrebbe recepire le norme europee previste nell'ambito dell'accordo, ma non potrebbe incidere sulla loro adozione. Potrebbe però ricevere fondi europei, come quelli di Horizon 2020 sulla ricerca ed Erasmus+. Per farlo dovrebbe staccare un assegno al bilancio UE, che nel caso della Norvegia nel 2015 è stato di circa 800 milioni di euro. Un'altra strada potrebbe essere il modello svizzero, un pacchetto di accordi ad hoc su diversi settori, ma un'influenza limitata sul processo decisionale. Anche in questo caso è previsto un contributo al bilancio europeo, che per Berna vale circa 320 milioni di euro. Londra potrebbe anche scommettere su un accordo di associazione o una super associazione, come quello siglato con i paesi che si avvicinano all'Unione. Tutte le soluzioni su misura porterebbero però a un inevitabile allungamento dei tempi. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Brexit lascia un vuoto a Bruxelles e non è solo effetto nostalgia, ma corsa alle poltrone dei funzionari britannici, da sempre tra i più abili a scalare i gradini della carriera diplomatica europea. Ora, con l'addio di Londra, si apprestano a restare vacanti 1.128 posti, di cui 8 a livello più alto, tra direttori generali e vice. Lo stesso dicasi per 25 manager al servizio diplomatico europeo guidato da Federica Mogherini. E a questi si aggiungono ruoli politici all'Europarlamento. Sui 73 eurodeputati britannici ci sono 2 membri del Consiglio dei Presidenti, 3 presidenti di Commissione, tra cui Mercato Interno e Libertà Civili, 7 responsabili di delegazioni, tra cui Palestina, Iraq e India, e 8 relatori di dossier chiave, tra cui emissioni, fondi monetari e migranti. Una torta che fa gola a molti, francesi e tedeschi in primis. E gli italiani? C'è da capire se in questa finestra che si apre saranno in grado di scalare posizioni chiave nell'ombra delle poltrone di Bruxelles. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pensiamo che la Gran Bretagna eviterà a malapena la piena recessione, ma i rischi di uno scenario ancora peggiore sono numerosi. La previsione di Standard & Poor's, secondo cui lo shock della Brexit sarà concentrato sul Regno Unito, ma avrà importanti ramificazioni nel resto dell'Europa. Per questo, l'effetto negativo sul PIL britannico dell'1,2% nel 2017 e dell'1% nel 2018 impatterà anche sulla crescita UE, 0,8% nel 2017 e anche nel 2018. È tutto, adesso tutti convocati da Carlo Genta. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.